4F. Ascolta e trasforma. Dormi molto? Dormite molto? Apri la lettera? Aprite la lettera? Parti presto? Partite presto? Prosegui tu? Proseguite voi? Senti freddo? Sentite freddo? Vesti elegantemente? Vestite elegantemente? Servi il caffè? Servite il caffè?